Che cosa chiedere ad una notte arrivata per semplice inerzia, sulle ceneri di una giornata che sta finendo com'è iniziata. Siamo caduti, siamo rialzati, senti la testa che cade in frantumi, fiori appassiti, mai annaffiati, sempre sconfitto ma intanto profumo. Allora propendi per un gilet con la cravatta rosso flambé, pensi alle scarpe e alla cintura che ti contiene finché dura. Prepara i discorsi, imposti la voce con un cicchetto al gusto di noce, poi parlerai, ai ai, per dire quel che farai. E poi ci sei tu, che mi confondi e mi porti nel blu, porti via, via, via, proprio a due passi dalla follia, che è proprio mia, tua, sua, c'è chi sta pompa e chi sta prua, si naviga vista, ma di questa notte che cosa sarà? Eccomi qua, ancora una volta, e chi non mi segue, te lo colga, perché questa vita è mia. La riaccendo con la magia, sono nascosto, sono un attore, parlo di vita che senza l'amore sembra una storia, tutta funzione, il fallimento di una missione. E allora vai, vai, vai, non mi interessa cosa penserai, perché sono io, io, io, e questa sera mi sento da Dio, e non sopporto d'essere rapito da una realtà che mi punta il dito, solo perché amo i colori che porto dentro e non solo fuori. Passano auto, motociclette, il fumo giallo delle sigarette che si colora sotto i lampioni, impregna la giacca fino ai pantaloni, l'insegna azzurra poco lontana, lo sguardo intrepido di una puttana, passo veloce verso la meta, l'orario treni appeso in bacheca. Ci sono sere adatte a far niente che poi si impregnano del passato, allora vai in cerca della tua gente che urla il tuo nome perché sei tornato. Notte miracolo giù al caffè jazz, tu tu, notte la me, tu tu, porta quel bacio là dove non c'è, e poi un bacio portalo a me come dessert. Siamo rincorse, siamo destini, siamo più fragili dei bambini, siamo marmitte dei motorini, nuotiamo a galla come i delfini. A noi basta un cielo solo sognato per rimanere senza fiato, a noi basta solo un po' di calore per farci soffrire una pena d'amore. E poi ci troviamo quasi per caso come una serra in un unico vaso, nemici ostinati dello stress che combattiamo a ritmo di jazz. Con il bicchiere siamo i più bravi, noi sorseggiamo in 12 ottavi, e quando la vita è lei che ci beve, noi siamo lesti a cambiare la chiave. Vai, vai, vai, non devi dirci cosa farai, perché con noi, noi, noi, puoi fare sempre quello che vuoi. Do, do, notte miracolo giù al caffè jazz, do, do, notte flambé. I love you. Lascia quel sassone.